La radio è un po' così impazzata, comunque già ti tiro fuori, bene. Gianni, doppio ru. Dai, sto all'ascolto, l'entro dopo, dai. Ma la foto, mandatela in dettaglio. No, non riesco a mandartela. Mandami un saluto, si vuota. Ok. Giuseppe, scusa, scusate se entro così, vado in carichetta batteria e torno subito. Va bene, ricordi. 5 minuti, mi veloce, sennò ce ne andiamo tutti. Metti il cronometro. Vai, fai con calma, non ti preoccupare, mangia tranquillo e sereno. Se te ne hanno lasciato, perché c'è quella tua sorellina, quella è mezzo avvoltoio. Già, lo so, lo so. Sto scherzando, naturalmente, è troppo simpatica, dai. Ok, poi ci abbiamo il condor qua vicino, vediamo se il condor c'è ancora. Avanti, va. Quello cacchio è nel fuso orario, per lui adesso è coso, è pieno giorno, si sta alzando. C'ha 6 ore di fuso orario, Marco. Ma ti svegli, Marco? Nuda, sta facendo orecchio di porco anche lui. Va benissimo. Dimmi un po', Fabio, domanda interrogativa. Ho visto delle casse, quelle piccoline, cosa era? Ah, quelle... quelle monovia. Quelle... si chiama quello ciliegio, se non sbaglio. Quelle erano in terra. Fabio, sto uscendo in... in PMR, io sento, 7, 2 minuti, a dopo, ciao. Cappallet, no, no, apparecchio qua, però adesso guardo se, se me ne trovo uno, non lo so se, se... vabbè, nel caso mandami una barca, hai capito? Sì, ok, insomma, vabbè, ok. Scusate. Vabbè, no, quelle casse sono un regalo, un mio regalo di tipo toscano, perché gli ho fatto una riparazione di un apparecchio che lui mi ha detto che tutti gli italiani hanno riparato quando era una cassata. E allora me le ha spedite, sono praticamente su un disegno Fospex 106. Lui ha lavorato in legno, visto, mi ha fatto delle riparazioni rifinite, ha fatto gli spigolini con l'angolino, calcolato giustamente dentro, le imbottite, sono tutte carine. Io continuo a amare le 4 Luan, però pure quelle non sono così maluccio. No, no, mi hanno colpito, sono belle, belle anche esteticamente. Ma i componenti non sono Fossex. No, però sembra un Fossex, non lo so, l'ho fatto fuori. Sembra il clone di un Fossex, una sorta di... sembra, capito, tra il Tornado e il Connex, capito? Cioè, sembra uguale. No, no, mi piace, poi adesso se, con gli autoparlanti che ci sono adesso riesci anche a fare dei bei suoni. Io ho un Gauss, un larga banda da 38, su, lo usavamo quando c'eravamo la saletta, l'unica cassa che non abbiamo sfondato, c'ha un bellissimo suono, monovia lo stesso, e ti posso dire suonava molto molto bene. Sì, ma voglio anche in macchina, capito, vorrei monovia, è che purtroppo mi ha fatto suonare con la cacchio di Audi, ci ho dovuto fare un 3D davanti. Io già il 3D non lo sopporto più da anni, non riesco col 3D, il 2D lo accetto e vabbè, io sono per le 4 Luan, non esco da lì, sono malato di quelle, però ci sono dei monovia, robe, monovia, cioè da 5-4 MS che hanno una pressione sonora, cioè, inimmaginabile, 5 watt, capito? 5 watt, allucinante. C'è questo mio conoscente di Nuoro che si è fatto questo trombone gigantesco, una cassa di sera che pesi tipo 120 kg tutto il martello, con le camere dentro, tutti i percorsi per il suono, eccetera, e esce con 5 watt quella cosa. Devi sentire cosa sono 5 watt, è una cosa incredibile. Sì, se sono alta sensibilità, no, quella che ho io sono 2B lo stesso, c'hanno un woofer da 38 dell'acciare, un tweeter a compressione sempre dell'acciare, ma c'hanno 102 dB di sensibilità, non di efficienza. Cavolo, 102 dB, se lavoriamo con la P-Amp, la teniamo fuori buono buono, Sì, sì, quelle bastano 3-4 watt che ne buttano in terra la casa, cioè suonano più una, che ne coso. Poi c'ho queste Proson, si chiamano, nome ridicolo, che sono discretamente, quelle sono da 96 dB di cosa, sono alte 1,5 metri, se le vedi sono delle bestie, eccole lì. Adesso proprio ieri, l'altro giorno ho comprato le ruote da metterle sotto, delle basi, perché spostarle pesano 50 kg, più di 50 kg l'una per. È speciale, è proprio... pesantissime. Ciao, non tieni presente due woofer da 32, uno sopra l'altro, il medio e il tweeter. Delle canzone. Come le amplifichi, comare? No, le sto attaccando allo Yamaha. Io ho una sala dove ascolto e ci ho messo lo Yamaha lì dentro, dove voglio sentire musica. Col Marat ci ho collegato, che è uno spreco tra l'altro, dove ci sono i 1200 e il coso, il mixer e tutto il resto della bandana, come si dice, della roba. Ci sono abbinate delle casse della Pioneer, che me le ha date in scambio quella persona che ha nominato tu di Montserrat, le avrà dato altre cose, diciamo, c'hanno il buffer lo stesso da 32, quelle sono tre vie, ti posso dire, nel loro piccolo già suonano anche quelle lì, non è altissima qualità, però vanno più che bene. E vedete anche, insomma, si scambia un po' di componenti, di giri, non solo in alto, ma vai proprio, c'è che un po' la qualità, perciò la media è molto alta, e magari non si vede differente cambiando gli allenamenti, no? Ti rendi conto che magari quello è una caratteristica dell'amplificatore, perché sulla cassa che ti colleghi più o meno va sempre così, invece quella cassa ha una caratteristica un po' diversa, perché sbuca sempre quella caratteristica quando inizia a cambiare l'amplificatore da una parte all'altra. E guarda, quando vai così sulla qualità, sì, ti discosti, magari non sei perfetto, che poi la perfezione non ho capito chi può dirla, tanto per intenderci, però se sei abituato anche ad ascoltare musica classica e musica dal vivo, insomma, con quello che mi hai detto che hai, così, con quello che puoi scambiare, già non ci vai lontano. Sì, ma poi sono diversi suoni, cioè adesso quando c'è certe cose riesci a sentire la differenza dell'amplificatore, dall'amplificatore all'amplificatore se ne accorgi la differenza, il suono Marat è tutto un suono particolare, il suono Yamaha è un altro tipo di suono, c'ho il Revac col grosso, col finale quello grosso è un altro suono ancora, quello è uno spettacolo stesso di amplificatore, solo Technics è un altro suono, quello per certi versi dipende dai gusti musicali che hai, a me questo Yamaha mi entusiasma, mi piace tantissimo. Il Marat invece è un suono più dedicato, cioè alla voce, per certi generi musicali, molto più naturale per certi versi. Quello della Yamaha è molto più neutro, ha degli acuti spettacolari, però magari può essere più carente magari sulle medie frequenze. Cioè riesce a notare quando c'è certi impianti e certe casse le differenze di suoni di ogni amplificatore. Ci vuole anche un po' di orecchio abituato, non per vantarmi, ma un pochettino di orecchio ce l'ho. Infatti quando c'è, sento gente, ascolto qua, una cosa è ascoltare, un'altra cosa è sentire, la musica sono due cose, ti ripeto, io quando la prima volta che ho sentito il Tiamp ho detto no, io ho sbagliato tutto di come ascoltavo, mi sono riascoltato tutta la roba che avevo e dicevo che cacchio ascoltavo io, cioè quando senti certe cose ti rendi conto che ci sono cose diverse. Poi ci sono cose diverse, per esempio io sono molto vicino al vinile, il CD mi sta stretto, non lo so da quando è nato il CD, da quando è nato, io avevo delle cassette che suonavano meglio del CD e mi chiedevo come mai la gente continuasse a, cioè sentiva il nome, sentiva che era un CD, già solo sapere che era un CD per loro andava bene, capito? Ci hanno infilato una tecnologia che potevano sinceramente risparmiarsi, perché ci hanno fatto troppo la tasca su cose che poi alla fine si sono rivelate veramente fallimentari. Come ti viene in mente di poter pensare che una tecnologia nata nel 1800, cioè quella del grammofono praticamente, sia molto superiore a un raggio laser, sovracampionamento 198K e cose del genere, o musica liquida con processori digitali, TAC che vengono fuori da una parte all'altra, cioè la tecnologia dell'800 batte tutto. Mi sembra quasi di poter pensare che il baracchino è tornato in auge perché la vecchia tecnologia è quella vincente. Sì, ma la radio analogica, adesso ci sono anche le radio digitali, lasciamo perdere. Ok, se la radio è sempre la radio. Così sono le valvole, io sono appassionato di valvole, infatti quando sarà il momento opportuno ci saranno qualche soldino da parte, già me lo cerco un bel amplificatore a valvole. Campa, come ha detto questo amico che io ho nominato, dice no, valvole, dammi l'euro in su. Però non è vero, roba, si trova anche a meno i prodotti meno blasonati, perché per esempio il mio, adesso gli faccio due foto, visto che è aperto ed è su un fianco, poverino, gli faccio due foto e te le mando, che sembra un vecchio baracchino dentro a vederlo. perciò non ha quelle raffinatezze delle cromature intorno alla valvola o le valvole che vengono fuori, un po' come il giochetto che si è dato di fare su quella casa. È tutto chiuso, è una scatola brutta, con portata d'alluminio, i segni lì davanti del sito sembrano quasi quei trasferibili, hai capito? Sì, sì, mi immagino, ok, torni avanti a te. Io sto messaggiando con un telefonino. Eia, poi chi c'era qua? Riepiloghiamo, doppio rumo, ancora ci sono. Eia, anche sto messaggiando. Vabbè dai, che adesso ho smesso. Kappa, dai. Non so di che cosa stavate parlando, perché stavo rispondendo al messaggio. Stiamo parlando di audio, un argomento da parte mia e credo anche di Fabio molto molto interessante e piacevole da parlare e da ascoltare. E anche a me piace sentire la musica in un certo modo, non mi piacciono le mantracche, specialmente in macchina, che io metto la musica a tutto volume quando sto facendo viaggi, non mi sopporterete voi, se viaggiate con me non mi sopportate, che la metto un bene a me ne so. No, io ascolto l'altro volume, naturalmente senza distorsione, è inutile che fai il rumore come qua in frequenza, che fai un bel aburuto e non si capisce niente. Io ascolto a volumi sostenuti, infatti in casa mia, quando li faccio in orari dove si può fare, c'è un ambiente molto grande dedicato a quell'ascolto, ma più di una volta mi hanno chiamato dal palazzo in fondo, mi hanno detto ma faccio il concerto alla Torres, e io ridendo sotto, ma io non sto scherzando, hanno telefonato a mia sorella e lei abita in Adaria, 50 metri da me, con le finestre tutte chiuse, io e lei li sentivo a casa sua, e io ti posso dire non è che li do potenze esorbitanti, il problema chi rende sono le casse, quando c'è delle casse che ti danno dei bassi che te ne scende in terra il palazzo, quando c'è bassi così ad alta sensibilità le casse, bastano anche 10 watt è come che ne hai 200-300 di casse normali. Vabbè, poi c'è un volume normale, io mi ascolto molto piacevolmente d'America, mi piacciono bene. Guarda, ti faccio solo un rapporto, 4 decibel di sensibilità in più da una cassa da 90 dB a 94 dB stai a, è come che c'è un amplificatore col doppio della potenza, per cui se tu c'hai una cassa da 100 dB rispetto a coso a una cassa da 90 dB sono 10 volte la potenza, tu se c'hai un amplificatore da 1 watt è come che ne hai 10, se c'hai un amplificatore da 10 watt è come che ne hai 100, questo è il rapporto, per cui non c'entra avere potenze esorbitanti quando c'hai casse molto sensibili. Le mie non sono caricate a tromba, sono bass reflex e basta, perché se carichi a tromba guai, se fai quei tipi di altoparlanti li metti a carica, caricate a tromba guai, cosa succede? Sono carico reflex con l'accordo e basta, per cui solo che sono altoparlanti molto molto sensibili e di grande diametro, sono altoparlanti professionali, ma fanno un suono da paura, cioè ti senti lo stomaco, e ascolto neutro, non uso controlli di tono, c'è addirittura con l'amplificatore il tasto sulla serie Natural Sound della Yamaha, già li conoscerà Fabio, non ha, c'è un tasto che esclude tutto, quello che entra esce, proprio passa a salta degli strati in modo che il segnale sia il più limpido possibile, e c'ha dei suoni molto molto buoni, non dico eccellenti, molto buoni, perché eccellenti non si dice, perché ce ne sono amplificatori e impianti li fanno 10 a 0 al mio, però con quello che ho speso io posso togliermi soddisfazione. Dai. Beh, certo. A te ti andrebbe bene una casa in campagna, di modo che puoi sfogare tutte le tue, diciamo, le cose che ti trattini per non disturbare gli altri, dai. Metterlo tutto come guida. Non posso alzare, io ho provato a sollevare quasi a metà, ma non è possibile, a parte che è troppo forte, cioè ne butti in terra la casa, e, cioè mi dà fastidio anche a me, vorrei fare la prova dei limiti di quelle casse, salire e portarle su, però non posso farlo perché è talmente forte il volume, è spaventoso, e, ho sostituito delle casse probabilmente qualitativamente molto migliori come suono, parliamo, come in attualità di suono, queste infine Infinity, che hanno un suono speciale. Infatti chi li ha preso è quel tipo Fabio che ha conosciuto il tuo, ha detto che se le tiene a casa sua e non le dà a nessuno, perché lui ne aveva tante, le doveva fare, abbiamo fatto uno scambio e lui ha detto no, queste me le tengo per me a casa e non le do a nessuno, perché hanno un suono, solo che non sfigurano quando le metti vicino a delle casse molto più sensibili che ti danno quel basso, te ne butta in terra lo stomaco. E allora andate via per quello, perché se ascolti certi generi di musica, quelle sono eccezionali. Se ascolti musica jazz, musica classica, niente da dire, sono ottime. Però quando vai ad ascoltare musica rock, dove ci vuole potenza, devi sentire il basso che scende sotto e ti fa vibrare, quelle non è che erano più di tanto. Dai Fabio. Io ho un problema, sento Gianni con la radio molto bassa, perché purtroppo non so perché, o c'è qualcosa di acceso degli appartamenti intorno davanti, ho un livello di QRM leggermente più alto del solito. Gianni, se parla a voce bassa, forse magari se si avvicina anche un pochettino di più al microfono, riuscire a sentire le parole, perché proprio devo ricostruire le frasi già, capito? Ehi, io stavo parlando a voce bassa per non disturbare, dai. Sì, lo so che lo fai, però magari un centimetro più staccato al microfono, gli altri hanno antenna, si sentono con due punti più di segnale e perciò sono a posto. Io purtroppo lo sai che sono ancora un po' schiacciato, già ne uscirò da questa cosa. Va. Vai Tony. Io ti dico che ci vuole più di che a farlo. Scappa. Anda bene. Sì, comunque mi sono mangiato un bel gelato io. Io mi sono mangiato un mezzo chilo di anguria prima, dopo il mangiare. Ok, tu devi, ma non ci dato la mappa. Cos'hai detto? No, a Tonino ho detto, gli avrei voluto misurare la glicemia dopo che mangia il gelato. Non c'è problema, guarda. 115, 118, non di più. Ma non la buonanza. Ma non ne hai di diabete, tu cazzo. Non è possibile, dopo che ti mangi il gelato, sta stare in picco. Ce l'ho appena mangiato il gelato, stai quando fa due ore, se sei come scritto, se no di telefono ti svelgo, Gianni, guarda che le glicemie ce la passa. Vabbè, fammelo sapere, non voglio fare un cielo da malaugurio, però per esperienza fatta, è vissuta, so che è così. Per dire, mangio la pizza, beh, mi sale all'impicco, non ne posso mangiare di pizza. No, io sì, non mi sale, non è la prima volta, c'è lo strumento per bisogno di glicemia. Ah, c'è lo smetterò. Vabbè. Io lo a portare uno qua che di gelato, se non te la fa salire a te non la fa salire a me. E di più? Sento nel fondo gente. Anche io, ma nel fondo proprio. No, ma io i segnali, voi quando sento a voi segnale 2, segnale 3, a me non esiste, io non ho mai sentito di cose. Il QRM qua minimo è a 5, scusate, a volte può scendere a 4, ma è minimo a 5, normalmente è a 5. Fabio, meglio mi senti adesso? Ora mi è molto più alto, A me Fabio bene mi senti? Lontano la pizza, l'ho lasciato lontano, infatti tutti mi sento. Fabio, e a me bene mi senti? Un QRM un po' altino. Ti comprendo, però sei proprio al limite, pensa che ti darei radio 2, ma si capisce che la radio non è 2, è un tipo di modulazione. Comunque già va bene, dai. No, anche perché è una tonica corposa e tutto, me la immagino io a segnale pieno che radio è, capito? Una radio profonda, pulita e a momenti quando il QRM è un millimetro più giù, molto dettagliata, sembra che sto parlando un impianto serio. Questo è un Galaxy. Quel modulatore è bellino, Là, quello di Gianni col Galaxy secondo me è la migliore che c'hai già. Me lo metto in tanti, ma anche quella col Cobra, col Magnum è bella. Sì, no, io cacchio sto facendo delle considerazioni, quella che piace a me per i miei gusti, poi magari a un altro gli piace più là, però questa è molto naturale, la sento molto naturale come ti conosco dal vivo. Sì, ma il Galaxy fa una bella radio, io l'ho sempre appurato, come anche il 3009 fa una bella radio. 3009 secondo me rende di più col microfono normale, cioè c'ha una modulazione molto, magari non spinge come questo col microfono amplificato, però c'ha una modulazione limpida, nel senso neutra, non ha esaltazioni. Questa invece è un po' più forte come modulazione. Ma Robert, il microfono normale c'ha il capo che di quelli duri, e a tirarlo quando sono sdraiato mi viene male, invece col microfono da tavolo parlo da lontano e parlo tranquillo, capito? È anche una questione di comodità. Sì, sì, no, naturalmente sto facendo delle considerazioni. Naturalmente poi uno in base alle esigenze e piacere fa quello che vuole, ci mancherebbe. Però a me come tipo di radio è quella che mi piace più di tutti, come quella di Luca che c'ha lui con Typhoon, mi piace tantissimo quella radio. Ma Luca è un bel forte, è un bel forte. E vabbè, c'ha quel microfono che è stato elaborato, capito? Elaborato da una persona che sa, ci sa mettere le mani. No, Luca sul microfono già ce l'ha cavicchiata, ha avuto un sacco di mani, di esperienza, eccetera, eccetera. A me, io qua, voi non credo che vi sia mai capitata una cosa del genere. Io ho il baracchino, l'Alan 48, dal 2005, c'avevo il microfono originale e Luca mi ha regalato, non mi ricordo cosa, abbiamo fatto scambio qualcosa, non mi ricordo, forse me l'ha regalato, dai, un M93, dal 2005 c'è con la batteria dentro, se tu lo schiacci è ancora a carica, si accende la LED, il LED del microfono e funziona ancora. Quel cacchio di M600, se ti dura un mese la batteria è troppo. Un mese? Ma per volerlo bene. Fare un interruttore per spegnerlo quando non lo usi, perché quello deve essere che continua a camminare, a assorbire corrente. Bricoman più una dura c'è montata, più una dura c'è l'aria. Cioè, 5 bar, questa è la quinta che stai ascoltando. Ovviamente li l'hai mettato all'esterno, i monozettaggi li abbassi la tensione, perché su io non ho mai visto un microfono consumare così tanta corrente. E scappa, lo so, però è il mio amore, il mio microfono preferito. Se ne trovo un altro me lo compro. Gianni, sì, guarda cosa ti ho mandato. Pane e formaggio. Allora, aspettando di vedere questa cacchio di modifica che hanno fatto al baracchino di Tonino, veramente se la potevano anche evitare, guarda. Porco cane, non capisce niente. Ma ti stai aggiustando un baracchino di qualcuno? Capo, mi ha fatto stasera una stazione base molto carina. Aspetta, una Albrecht AE8000, cercatela. Molto carina, sembra una parata OKS. Alberecchia a 8000. AE, Ancoli, Ancona, Empoli 8000. Ma è svoltato, solo mi mandi la foto direttamente, non so cosa è. Sì, aspetta che è svoltata, però mi faccio la foto sul fianco, se la mando. Eia, no, albere che non li ho mai avute, però ne ho sentito parlare bene, ho visto delle fotografie, sono carini come apparati. Guarda, sto facendo la foto. Eia. E beh, Tony, ma quindi hai preso qualche apparato nuovo? Non ho capito. Quindi hai preso qualche apparato nuovo? No. Ho dato qualcosa che a me non mi andava, era un po' vecchiotto e mi hanno dato quello. Nuovo intendo, nuovo nel senso uno di nuova cosa che non avevi. Roger. Eia, dai. No, c'è gli stessi gusti miei, base, a me i veicolari, a meno che non sia una cosa rarissima, particolare, però non mi piace. Infatti c'è qualcuno da fuori che interessa un veicolare e sto sbolognando questo che c'è, l'unico che mi è rimasto, così ho detto mio, stazione base, mi dai un soldi e me ne compro un'altra stazione base. Che cos'è questo? Questo è un Connex 4000, e mai si può dire già dato via. No, a me non interessa, però sono già Connex, sono belli, sono anche belli. A me il veicolare non mi piace. Io ho quel cacchio di Alan 48 che è nuovo, ti ripeto, me l'hanno regalato, l'ha tenuto una settimana, perché questo faccio il rappresentante, gli hanno detto mettito le macchine, così ti dicono quando ci sono, ti avvisano i camionisti, quando ci sono i posti di blocco, e hanno sequestrato la battente, ma non mi sbagliato. Ma per il baracchino? No, perché questo stava camminando veloce, gli hanno ritirato la patente, il posto di blocco, e lui era di quelli comitati, tanto già mi avvisano se c'è il posto di blocco, domani, arrivi in madre, infatti la te tieni, se non mi serve più. Deluso. Lui era convinto, gli amici suoi, qualche camionista, ha detto, no, mettito noi, tra di noi, ci diciamo, prima si diceva al canale 5, quando c'è attenzione, strada per Muroso, al distributore c'è il posto, oppure ci faceva prima, i camionisti ci aiutavano tra loro, e lui se ne stava su canale 5, solo che era andato avanti, perché non gli ha detto niente a nessuno, lui ha camminato e l'ha bloccato. Bisogna essere in regola, c'è poco da fare. Guarda che devo andare a foto. Scusa che questa è la gista per lo bene. E comunque è spento l'apparecchio. Ma sulla destra c'è la frequenza, il numero del canale. Molto carino, molto carino. E secondo me funziona anche bene. E forse a posto. Questo è il mio apparecchio, il Multicon della Intec, preciso e identico, a parte il manopolone che è stato sostituito. Questo è un grandissimo apparato, il direttore ha già detto anche l'altro giorno, in ricezione è meglio del 140, ma molto molto meglio. In trasmissione è una grande cagata, nel senso, se non li fai delle modifiche o li metti, di quali ho messo l'M600 su quel baracchino, se no non esce, manca il ruccio, proprio talmente strozzato. Quello è omologato comunità europea, un baracchino omologato, e è quasi un sintonia continua perché fa da 25,6 fino a 32 arriva. C'è la tastierina, ci sono dei modi per aprirlo, nel senso quando prima di accenderlo schiacci un paio di tasti e diventa non so quante bande diventa. Marco, e tu che multicom è? 485, 497, 230, qual è? Il 497 è preciso identico a quello lì, identico, non cambia una virgola. Esistono tanti forum su quell'apparato lì per fare delle modifiche, per farne uscire 15 watt, per rendere più potente come modulazione. C'è un sacco di cose, un apparecchio, no, perché questo è quello che vi ho raccontato, che il padre lo voleva indietro perché il figlio l'aveva venduto eccetera eccetera di nascosto. Quello è l'apparecchio che a me mi piace più di tutti i baracchini che ho. Parliamo come qualità di apparecchio, come ricezione, non satura, per dire, tu li puoi mettere 100 watt a fianco uno e quello non satura, al contrario di tutti gli altri baracchini che ho, base o veicolare, proprio appena c'è un segnale, per dire, col patch, appena c'è qualche segnale forte qua vicino devo chiudere le fregne, se no diventa muto, così Royce, l'altro Intec, quello li puoi attaccare un kilowatt vicino e sempre andare. Poi tutto preciso, gli strumenti sono, è trattato, mi pare che arrivi sino a 960 lo strumentino del coso, c'ha il modulometro, c'ha il wattmetro e il rosmetro incorporato, c'ha bande laterali, AM, FM, bande laterali, c'ha quella tastierina, c'ha la scansione dei canali, c'ha il canale di emergenza 19, c'ha tutto, è un baracchino eccellente, completo. Ma l'ho visto, che la circuiteria è abbastanza, mi sembra di trovare un po' il meglio di quello che c'è in giro, forse prima di lui. Nel senso che ci ho trovato specchi di Connex, cioè specchi nel senso anche metrico di Connex, però la sezione PS dove l'ho vista è su un altro apparato, è comunque fatta molto bene, secondo me. Non ha il solito KIA, capito? Da un altro transistorino che si usava in certe autoradio per la preamplificazione, figurati, faccio l'audio anche ben trattato. E mi dicevi che modulazione comunque non spinge molto. Allora, esiste una modifica, io non l'ho fatto, il mio è vergine, è normale, naturale, infatti se lo senti è una gaggada. Devi mettergli un microfono amplificato, devi spingere un bel, e se c'è controllo di tono li devi regolare perché sennò è uno schifo, ti sto dicendo. Non ho provato col tunnel perché c'ha le connessioni, mi sembra 6 a 8 pulli, non lo so, però ti posso dire, c'ho anche il microfono suo dedicato, amplificato, quello Intec, non mi ricordo come cavolo si chiama, però sinceramente non esce bene. Però conosco gente in un forum che hanno fatto questa modifica, ma proprio non fatta da imbecilli, fatta da gente competente, senza modificare niente, perché detto, ci sono delle modifiche che poi ti crea problemi di potenza su certi canali. È fatta una cosa probabilmente dalla casa, secondo me, perché se tu entri, io me l'avevo stampata la modifica, è tutto fatto con tutti gli schemari, con le tensioni, tutto rispettando dei valori senza uscire troppo fuori, e dice così esce bene. Bene, io non l'ho toccato, il mio originale. Stampa comunque è molto modificabile, perché per gli stati che ha si possono fare molte modifiche. Il problema è che vanno appunto fatte con la stessa, perché ho visto qua qualche streamer manettato e mi sa che devo fare una bella ricerca sui componenti che hanno cambiato, perché sono certo che questo apparecchio non sta funzionando bene in questo momento perché è stato modificato. Io a questo punto sarei così, semmai aprirei leggermente la LC robe, tanto per non avere questa cosa della radio, e non è una modifica che distrugge, capito? Cioè ha un po' aperta in più con un amplificatorino, con un microfono amplificato, potrebbe uscire molto bene, però la modulazione che mi piace di più è quella del Connex, e perciò della Saturn, diciamo lì. Sì, Saturn come modulazione è uno dei migliori, dei base è probabilmente uno dei migliori, e dei veicolari forse la modulazione più bella c'hanno la serie President, sono delle bellissime modulazioni, anche Comex, il coso, il Pluto, lo stesso che funziona bene, che è uguale al coso, al gas. Una domanda, Tony. Dimmi. Dove l'hai preso questo apparato? Cagliari. Ma non è funzionante, cioè che problema c'ha? Aspetta, ma stai parlando del mio che c'ho in casa o quello che c'ha Fabio? Quello che c'ha Fabio, questo albero. No, quello era di Gio Maria. Ah, di Gio Maria, non lo sapevo, lo utilizzava Gio Maria quel baracchì. Ma non lo so, ma ne aveva due. E uno ce l'ha mio figliuccio, cioè tutti e due ce l'aveva lui, uno malato a me. L'unica cosa, hanno cambiato il manopolone di cambio canale. Bravo, sì. Ma come l'hanno tolto? Non lo so, guarda, io l'ho visto così. Oh, Fabio! Cappa, Tony. Ma in trasmissione ci va almeno, sì? Come, Tony, scusa? In trasmissione ci va. Sì, io ho dato... Io ho l'ho fatto andare, però ha un ruolo di fondo elevatissimo, dove sono fidato. L'ho tenuto un secondo, importante. Modula anche, malissimo di sotto, però riesce a andare in trasmissione. E recensione ancora niente? No, no, sto studiando lo schema, hai visto che ho chiamato una foto lì, ho indagato l'intorno, sto pulendo un pochino per avere chiare alcune cose, così riesco a fare anche delle misurazioni. Certo che quando trovi punti come quelli che ti ho fotografato vieni anche a misurare, cioè non capisci le piste, hai capito? Ma lo sto preparando per dare una spatulata. Ok, mi ha detto che c'è pazienza. Avanti, vabbè. Ma è stato scambio o soldi le radio? No, no, scambio. Questa che ti racconto è una grande radio, quella ricezione, non per dire, non perché ce l'ho io, perché ne ho anche altri, baracchini, eccetera, è grandissima radio, è molto meglio del 140 in ricezione, te lo garantisco perché, e te lo dico per certezza. Ma quello che ha dato Fabio? Quello che ha dato Fabio, quello è un grandissimo apparato, se lui riesce a sistemare il discorso della trasmissione, quello è, di quelli tutti i baracchini che ho visto, non ce n'è uno migliore. Di quelli. No, è la prima volta che l'ho visto, capito? Non lo conosco. Prenotato. Come? L'ho prenotato io. Stavo parlando di ricezione, in trasmissione ho detto se tu non li fai come ha detto lui, li tocchi le LC, puoi avere anche, tirare fuori anche 15 watt senza fare grosse manomissioni, perché c'è ce l'ho anche il sistema per farlo, l'ho scaricato, c'è probabilmente una cosa fatta dalla casa, non è roba fatta da principianti, perché ti dice cosa devi fare, che componente devi togliere e metterne un altro, eccetera eccetera, e quell'apparato da 15 watt effettivi in AM, ma da laterale non lo so. Però è talmente stretto come modulazione, proprio deve essere arrivato, per fatto è omologato CE, se guardi dietro c'è scritto CE, omologazione CE, almeno il mio è così, non so se quello sia già omologato, però è identico a quello lì. Però ti posso dire, in ricezione non ne ho mai visto baracchini che abbiano quella qualità, silenzioso, non fa rumori di fondo, non ha, come si chiama, non satura, è bello, poi c'ha un bel display, ha cristalli liquidi, eccetera, con tutte le funzioni, c'ha un sacco di filtri per andare, è completo, è un baracchino completo e può funzionare anche a 12 volt perché dietro c'ha la possibilità di inserire l'alimentatore esterno. No, a me mi è piaciuto, l'ho preso, però mi ha detto già che aveva quel difetto, infatti ne ho parlato con Fabio e ci siamo visti e gli ho dato a guardare. Se riesci a dimogliare i bivi. No, no, già ci riuscirà sicuramente Fabio. Però ti ripeto, tienitelo bello conto che è un bellissimo baracchino, non è di vecchia generazione, quello è già tutto sistemi, diciamo, non dico digitali, però è un apparecchio già a PLL, diciamo, non è di quelli vecchi tipo il Patch, che magari in modulazione li fa 10-0, o il Rovix, quelli che ho io. Però questo in ricezione è eccezionale. Se si fa qualche lavoretto, come ha detto Fabio, toccando la LC senza fare grosse modifiche, quello funzionerà sicuramente bene. Vedrà Fabio cosa fare, dai. Gianni. Ma Riccardino non è rientrato, roba lunga, ha mangiato pesante. Riccardino è sparito. Dopo che l'ha giusto lo dai a me. Tu mi dai Tyson. Lo sai chi ce l'ha, vuole al mio, però ho mancato Inter. Quello che ne ha un bel di baracchini, ce lo tiene anche lui bello caro, coso, ma fa una privata. Ah, e infatti è tutto gatto, c'è il tram che è un bel bello. Però ti dico, lui mi ha detto, Walter che è più grande, mi ha fatto la comparazione, c'era anche Marco Scorpion, il tram, non me lo immaginavo così grande, è più grande del DAC, però come bellezza non ce n'è per nessuno, il DAC è numero uno secondo me. E il DAC sembra un amplificatore di quelli grossi. Sembra un amplificatore audio, poi c'ha quegli strumenti da paura, valvolare, c'ha una qualità di emissione, buh, non ce n'è, troppo bella. Ce l'ha Claudio, uno ce l'ha, vabbè, cosa ne ha un paio, come si chiama, Walter, e Marco Scorpio ne ha un altro anche lui, sono troppo belle, enorme. Io l'ho sentita anche uscendo con la radio, una volta stavo a casa di Walter e Walter ha attaccato un Super Siderik e io pensavo che fosse con un apparato radioamatore, ho detto cosa stai facendo col Kim? E lui mi ha detto no, con un barattino, ecco il microfono amplificato della TAN. Ma vai, sono arrivato lì ed era vero, c'aveva la radio accesa, c'aveva il DAC che mi sembrava un amplificatore, e questo amplificatore, cazzo da quanto è? Mi ha detto no, non è un amplificatore, è un baracchino. Lucina, sono rimasto subito colpito, ho detto vedi, ma e lui mi ha detto ne ho due qua, se lo butti do l'altro, e l'altro c'aveva la manopola dei canali che girava tutta storta perché deve essere, ha preso colpo nel viaggio e non l'ho voluto, ho detto se mi devi dare quello buono, se no non ne prendo, e non me l'ha voluto dare. Uno c'è la Claudio di questi qui che ha girato un paio di mani, che è stato prestato da Walter a Daniele, da Daniele a Claudio, quello che c'è a Claudio ogni tanto lo fa girare e anche quello funziona bene. Le valvole mi pare che le avevano cambiato anche a quello di Walter, erano con le valvole usurate. Ma non è solo il valvole, lì c'erano problemi di alimentazione, condensatori eccetera, bisognava starci un po' attenti perché sono apparecchi che hanno 50 anni quelli, non sono giocattolini, poi quelli a valvole hanno tensioni un po' più alte, per cui i condensatori bisogna stare ancora più attenti. A me gli apparecchi a valvole mi piacciono solo come escono, però come altro non convengono, perché devi stare a cambiare le valvole, costa la banca di soldi e tutto. No, non è così già, le valvole, il problema è se le sovraccarichi, perché la durata di una valvola teorica può arrivare a 10.000 ore, diciamo un uso normale arriva a 2-3.000 ore, ma 2-3.000 ore sono tante, però il problema è se tu lo accendi, gli dai tutto a piena potenza di colpo, senza andare piano piano, cioè le valvole vanno fatte scaldare, stabilizzare termicamente, eccetera, eccetera, e così sono gli amplificatori audio, o gli amplificatori di potenza, se tu li smanetti, cacchio, li crepi immediatamente. Lo so, devi farle scaldare sì. Poi ci metti sopra le uovane, le fai fritte. Guarda, le radio private dopo una certa potenza, diciamo dopo i 400-500 watt, utilizzano solo amplificatori a valvole che usano 24 ore su 24, ma c'erano amici che avevano la radio, c'erano quello da 1000 watt dopo 4 anni, ma lavorando 24 ore su 24 a piena potenza e facevano 4 anni, fatelo conto quante ore devono andare. Se tu prendi una radio o un amplificatore audio e ti dura 50 anni, se vai con un utilizzo per dire un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, due ore al giorno, ti fa 50 anni, in un uso gravoso come una radio privata che lo tiene 24 ore su 24 ti faceva circa 4 anni, 3 anni e mezzo questa radio. Vabbè, è una questione così, la voce più calda, più bella, te la fa. Sì, la voce, la valvola è molto più naturale, non è un coso, cioè l'amplificazione è più lineare, è più fedele, dai, naturalmente parliamo di cose di qualità, non parliamo di mondezzina, perché ci sono anche cose a valvole che non hanno niente a che vedere con la cosa, con la qualità. Ricordiamoci sempre che sulle bande AM, che è la risposta in frequenza teorica, è da 300 a 3000 Hz, per cui molto ma molto limitata, più o meno come la voce umana, però se devi sentire uno strumento o qualunque cosa, assolutamente c'è un suono di scatoletta, però la voce umana, diciamo, in quell'arco di frequenza riesce a essere abbastanza credibile, non dico reale, credibile. Ok, avanti Torino e poi passare il mic a Fabio. Vediamo se c'è Emanuele. Gico, ci sì. Emanuele, avanti Fabio. Sì, campa, sto guardando. Verità, diffuso in America con altri nomi, però è un apparecchio che insomma lo si trova interessante, deve essere una macchina di uscita. Mi era sfuggito, io vi giuro, non l'avevo mai visto. Io ce l'ho tanti anni questa qua, ce l'avevo dal 2006, quanti anni, su 14 anni c'era questa baracchina. Ah vabbè, io sono salito 25 anni, dai 20, da di più, quasi 25, beh, perciò mi sono così interessato. E beh, cosa hai mangiato oggi? Il menù cosa c'era? Pane formaggio. Bene, oggi il menù dava insalata, pomodoro e tonno, e poi dava un pezzo di pane con peretta di patata, poi dava una bella cacciata per dessert e un po' di pane con Nutella. Cazzo, la grande allora, poi di patata sicuramente, già non vi mancano gli amici di lì, Pastorelli, che senza niente dire dispregiati o Pastorelli, nel senso che producono loro direttamente con il lavoro che fa tua mamma, magari qualche conoscenza di lì, di qualcuno lì dalle perette, già sono buoni. Ciao Riccardo, di ben entrato. Tutti, ciao Tonino, Roberto, Fabio e non so chi altro ci sia, perché ho finito di mangiare e mi sono fiondato. Ciao regà. Ciao Gianni. Marco Marini che mi ha conosciuto. Oh via. E Tonino, speriamo bene, dai. Cappa, speriamo proprio che tutto vada bene. E io domani cosa faccio? Cosa fai? Non lo so, mi gratta il pollice. Oh, una cosa, Fabio, dico l'apparato. Cappa. Non prenderlo come avaro il coso, lo Smither, perché è tarato diversamente dagli altri, quelli che abbiamo noi, per dire il K. E il K, questo almeno, quello normale è tarato a coso, a 150 microvolt per avere un S9, quello lì invece è tarato a 300 microvolt, cioè se vedi magari un segnale più basso dici non pensare che sia avaro lo Smither, è tarato così, diversamente, quelli di nuova generazione infatti sono tarati tutti così. E anche il 440 è tarato per coso, con i parametri di service è tarato a 300, quello che ci ho tarato io me l'ho fatto fare come 140 a 150 microvolt per avere la stessa intensità di segnale, cioè uguali i due apparati, in modo da non avere differenza da uno all'altro. Però quell'altro, quel multicom, vabbè io ce l'ho come multicom, ricordati se quando farai le regolazioni eccetera eccetera, lo Smither risulterebbe più avaro rispetto ai baracchini normali. Ah vabbè, siamo abituati. Tanto bene o male riesco a capire perché faccio una comparazione fra due apparecchi quando devo regolare lo Smither, capito? La media esatta, la media tra i due questi apparecchi è precisamente la realtà dei fatti, perché tirando lo Smither con i valori di riferimento eccetera mi sono trovato sempre male a farlo tecnicamente, perché poi alla fine prendo un cacciavite, lo isolo, se non trovo quello piccolino che ci sta bene e gioco tra un apparecchio e un altro, e da lì più o meno dovrebbe essere la tela giusta, diciamo che questa volta a naso va meglio. Via, ok, ma quindi tu l'hai provato solo per un secondo, non sai come esce o come non esce? No, Robert, non c'è da fidarsi, quando prendi un apparecchio la cosa da non fare è proprio per me l'importante, capito? Però pensavo che Torino magari l'avesse già provato, eccetera, gliel'ho chiesto e mi ha detto no, non lo so se esce o se non esce, e io per sapere un attimino come comportarmi per capire se magari potevo avvicinarmi già al problema sentendo come usciva, già metto il microfono, l'antenna, sono andato su uno canale vuoto, ho premuto un attimo la portante e quello che è scritto sull'altoparlante non andava bene per niente, cioè ho dovuto mollare subito perché ronzi, inneschi, il fischio era distorto, ho detto blocca tutto che affondo qualcosa. Eia, vai Riccardo. Eia, scusa Robè, mi avevamo staccato la corrente, non si può neanche fare queste O che staccano la corrente da dentro, sono tornato. Aspetta, te l'avevo staccata, per rispetto. No, perché così, perché gli piaceva, no? Perché di solito la porta, praticamente quando metto il cavo non si chiude bene la porta. E così cucina hanno avuto la brillante idea, per vedere la porta messa bene, chiusa bene, hanno voluto staccare il cavo. Se attento non li fa bene agli apparati, se li togli quando sono accesi, soprattutto quello che sta utilizzando, se li interrompi di colpo la corrente, non è bene, cioè benevolo il discorso. Tuo padre dice c'aveva un gruppo di continuità, quello dei computer, tienitelo vicino tu se riesci a collegarti, almeno una mezz'oretta di corrente te la dà se dovesse mancare, c'ha gli allarmi, ti avvisa, ti dà il bip e ti dice guarda che è mancata la corrente, così non fai danno, quelli che usano per i computer. Va bene, adesso sarà da sistemare, tanto mi sposto dentro, non ci sarà più il problema. Oh, ricordi? C'è Fabio. Questo perché tua sorella non ti può mettere la portante. Al posto di metterti la portante, stacca la corrente, quella lì. Va bene, mi non gesticolare. Mia sorella stava gesticolando. Allora, avvicinate tua sorella. Vicino a me ha una giacca, gli sta 10 volte. Saluta. Saluta. Ah, saluta. Sono timida, è ancora da maestrare. Bella questa battuta. 10, Riccardo. No, da maestrare no, ti prego, Riccardo. Ci vogliamo bene. Sì, ma poi l'hai vista la sorellina, cioè che toga, che va, tutti brillanti in casa, eh. Ricordami il nome, non me lo ricordo, Riccardo, come si chiama tua sorellina? Francesca, ed è perfida da piccola. Francesca, ciao Francesca, io sono Roberto, quello più cattivo di tutti. Ciao. Ciao bella, dai, ben sentita anche a te per la prima volta, dai, ti facciamo salutare tutti quanti, così, avanti, cosa? E Fabio, chissà che mi viene Davide, io non riesco a togliermi questo Davide da testa, avanti Fabio. Scappa, ciao Francesca, ci vediamo anche domani forse, eh. Avanti Gianni per i saluti a Francesca. Ciao Franceschina, ciao, ben sentita, dai, buonasera. Ciao Francesca, mi hai sentita anche da parte mia. Aspetta, diventa meglio di te quando cresce, mi Riccardi, te ne frega la stazione e tu ti devi mettere a aspettare, se no ti mette la portata. Ciao a tutti. E hai sentito? Ho sentito, ce l'ho accanto questo mostro. Era bravo. Ok, vabbè, anche lei ascolta, quindi quando parliamo si mette lei vicino a te la sera. Si mette vicino a me quando vuole qualcosa o vuole rompere le scatole. Dai, che già tranquilla, dai. Sarà curiosa, dai, di vedere come funziona a te all'opera, eccetera, eccetera. Ok, vediamo un pochettino, facciamo un riepilogo. Tonino, Gianni Doppio Room, Fabio, io e poi chi c'era? C'era Luca, è entrato il sito, Pomponio, oh no, mi sbaglio. Antonello sta schiacciando la busta delle patatine, ogni volta che entra sembra che c'è le patatine e la busta. Beh, ci vogliono le patatine con la birra, troppe scariche c'era. A casa sembra che sta cacchio facendo tipo la cosa, no, le patatine, quando apri l'uovo di Pasqua, con la carta delle uova di Pasqua. Ehi, ha praticato il microfono che tira un bel, è una bestiolina lì, è un palmare che il BM1000 modificato tira davvero tanto, però logicamente si porta presso tutti i rumori dal cavo, come ruota il cavo alla canzone del microfono, la stazione della portante che lì mentre lo schiacci un po' si muove, poi ho capito che non c'è retina, mi sembra che non abbia più la retina dentro, però vi prometto che vado da lui e lo convinco a migliorarlo. A certi momenti io l'ho sentito bello pulito, poi altri momenti come schiaccia portante sembra quando arriva a cacchio che accendono la televisione di colpo si alza il volume, così ti spaventi, sai che cavolo è? Ma tira un bel microfono, è vecchiotto, magari si va a mettere un po' di spray nello switch, da pulire un po' dentro magari, sai, per non fare quei rumori là nel cavo, da cambiare il cavo, però tira un bel, è un bel vecchio, lo vedi proprio, capisci che è roba fine anni 80, la linea brutta, capito? Però è un bel palmare, cioè suona veramente bene. Poi lui adesso lo sta tirando perché lui gli tira l'amplificazione, poi tiene il mid gain aperto, poi l'apparato che c'ha, il modulatore, grazie a Dio, già ci sono ritoccato, cioè si amplifica da una parte e non si amplifica anche dall'altra, lui invece va a manetta, sponda, visto che è radio. Sì, ma io dico una cosa, sta sempre sperimentando, è bello, se no, tieniti una radio e hai trovato il compromesso, non tocca nulla, lascia stare, non toccare niente, come più o meno avete fatto tutti voi, ma vedi, la tonnello esce bene, uci, l'indomani è tutto tipo Capri, cacca, ha fatto l'abbinamento perfetto, mi che uci torna a casa. E a questo punto, beh, niente. Non lo so, aspetta, provo a fare un'altra chiamata generale, attenzione, muro su se coppi Sassari, avanti, nulla, non c'è, mi dispiace se ha avuto dei problemi, ma cavolo, anche loro devono stare un po' più attenti, va bene, doppio rumba a te. E anche io ce l'ho il DM1000, va bene, ce l'ho, io ho fatto una modifica però, gli ho cambiato la capsula. Io ce l'avevo il Fire 1000 nella 1. Anche io ce l'avevo il motore, sì. E consumava anche un bel po'. Ah, se avete parlato in due. Chi è che ha parlato sotto a Fabio o sopra? Vai. Mi è Gigomino, Manuele. Ciao, Manuele. Ci sono anche, c'è anche Roberto, Riccardino, eccetera, eccetera. Saluto a tutti, aiuto. Ciao Manuele. Manuele vi saluta a tutti. No, ho già ascoltato, però adesso si è abbassato da 7,8, adesso è sceso a 5 di segnale. Come mai questi cambiamenti? Manuele, ti ha chiesto Roberto, come mai sei sceso a 7,5 questi cambiamenti? Come mai? C'è un'antenna autofabbricata, per carità. Sì, no, già l'ascolto, lo tiro fuori, però prima, un'oretta fa, quando è entrato era un po' più alto, comunque sono riuscito a tirarlo fuori, Santiago 5-6 fa, la radio 2-3, dai, riesco a tirarlo fuori, fortunatamente il QRM oggi è più basso del solito, se no non l'avrei mai ascoltato. Ok, vediamo, Riccardo, avanti a te. Ciao Manuele, ben ascoltato, Ginko. Sì, l'ho notato anche io che si è abbassato notevolmente rispetto a prima, che l'ho ascoltato prima ed era più alto. Ma noi ci ascolta tutti, Tony. Vero Manuele, ci ascolti tutti, penso tramite che Fabio, perché Fabio arriva bassa per me. Ascolti a tutti. E Roberto, lo senti? A Riccardino, Riccardo e Roberto. Riccardino gli arriva forte. Beh, lo sappiamo che ho problema la tua, l'antenna, Manuele. Ebbene, si sotto quel problema dell'antenna, Manuele. E quando andassi sopra, buoni, ti dico un'altra antenna febbrile. Ti metti un antennone e 50 vedova. Oh, la prima volta che non mi ascoltano dentro Sassari, non mi è mai successo, la prima volta io l'ascolto a lui, però non mi è mai successo che uno in città non mi ascolti. Ah, beh, lui è a Limadetta. Vabbè cacchio, ma siamo in città, anche se è un po' lontanuccio, sarà in aria, sarà a 3 km da me, non di più, però dico, non tirarmi fuori, è molto strano. La prima volta c'è per tutto. Eppure non è. Io dopo ho messo l'antenna qua, ti giuro, ho detto chissà se ci arriverò a Sassari. Invece mi ha dato soddisfazione questa antenna. Io ti ascolto 9+15 qua, radio 5 è perfetta, ma anche lui, adesso questo passaggio era abbastanza chiaro, 3-4 di radio, molto forte, considerando che il segnale è basso, però non riesco a capire come non mi ascolti lui. Berto. Dimmi Riccardo. Te lo chiedo, ma tu sei attaccato a qualcosa oppure hai tanti watt? Perché stavo guardando adesso che mi state dicendo a proposito di Jimmy, stai arrivando quasi 9.40. Io? No, non è possibile. Sono sempre uguale, io già lo sapete che tengo molto molto basso. Forse oggi sono anche più basso degli altri giorni, guardando l'indicatore qua, perché i picchi sono meno di ieri e dell'altro giorno. Ma boh, non lo so, e allora sarà avaro veramente su Smitter. No, vabbè, 9.40 è troppo esagerato, a te io ti ascolto 9.25 e tu sicuramente stai spingendo un po' di più di me. Sicuramente molto più di te, è che io non riesco ad arrivare, ma non riuscirò mai ad arrivare al tuo segnale per altri. Io non arrivo più di 20, ed è importante. Di coso, di picco posso arrivare a 50, però di portante muta sono neanche 20. Mi stavi arrivando, aspetta, da 9.30 passava a 9.40 quasi. In FM sì che già spingo, perché va in automatico, questo deve abbassare, però non tiro più di 20 watt, io, ma non me ne ha fatti nulla, tanto chi conta l'antenna, se ne ho 20 o ne ho 50 non cambia nulla il segnale, se ne metti da 20 a 200 sì che la noti la differenza, non cambia nulla. Ok, e poi almeno non sovraccarico l'apparato, non mi interessa di fare problemi a nessuno e mi tengo sempre così io. Ok, Fabio, avanti a te. K, nessuno ha notato che sono 2 kHz sotto, no? Nessuno se ne è accorto, meno male, ti figura di merda. Tu hai detto che andiamo in antenna il danno che fai qua in zona? Non è così, no. Non pensare che sarà morto. È una questione di... In questo momento comunque sia abbastanza cosa funzionando molto bene, per quello che è. Pensa che sia una macchina però che è arrivata col tetto fino a questo piano. Non sarò potentissimo, tranquillo, anche perché io 4 watt, punto. Sì, ma sei quasi 9 più 30 tu, e sei con un pezzo di filo, per come mi stai dicendo tu, dentro casa, chiuso, figurati quando metti una 5 ottavi in alto al tetto, qua arriverai oltre 9,50 sicuramente, arriva Bracco 9,40 quando attacca un pochettino arriva 9,50 e c'ha un pezzo di filo lui, un pezzo di manto faccia perché le manca tutto, fate un conto. Non lo so sinceramente, no. Sinceramente Robert, non ho grandissime aspettative, capito? Non penso che poi alla fine uscirà una stazione super curata, magari tu hai avuto precisione, tempo per stare sul tetto, io non riuscirò a fare queste cose come mi piacerebbe fare, anche perché non ne ho la possibilità al momento. La situazione è un po' complicata, perciò devo riuscire a trovare il momento per sbattere tra virgolette quella strada in su, possibilmente con due tiranti, così non ne cade subito, giusto così. Certo è che se avessi avuto un attimo di condizioni migliori per riuscire a fare le cose, magari mi sarei organizzato per avere qualcosa di più, però comunque la mia idea è sempre quella, riuscire a parlare con gli amici. Mi fa piacere riuscire a sentire Tonino, anche se purtroppo è bassissimo, mi fa piacere sentire Gianni, che già non sono più vicini come siamo io e te, per dire, no? E perciò la soddisfazione è anche un po' questa, capito? Anche se non è un impianto perfetto. Poi metterò un'antenna, tutto quello che viene in più è piatto che cola, e poi ti regalo un attenuatore. Eia. Ok, vabbè signori, io adesso interrompo e vi lascio in conversazione se avete ancora argomenti interessanti come quelli che abbiamo avuto sino adesso. Mi sono divertito, dai, è bello rimanere così in conversazione con argomenti interessanti e con persone piacevoli. Dai, io interrompo, saluto Fabio, Riccardino, Tonino, Gianni Doppio Room, come si chiama, Emanuele, non so se mi ascolta, comunque io sanamente riesco a tirarlo fuori, lui non mi ascolta, considerando che lui c'ha una situazione un po' scomoda, pensavo che io arrivassi un po' meglio da quelle parti. Correti da parte mia, ciao ciao, buon proseguo, a domani eventualmente. Ciao Robe, ciao Roberto, buonanotte, a domani, avanti Riccardi. Sì, Tony per il mic, ciao Roberto, buonanotte, cioè, sono appena entrato e stai appena uscendo. Ma non mi essere così sacro Riccardi, a favore, non mi fare queste cose. Sì Robe, buon quello con tutto, ci vediamo anche domani, sicuramente, e niente, alle tue simile. Avanti Riccardo, fatti sentire un attimo di voce. Mi faccio sentire? Mi faccio sentire, cosa vuoi sentire di me? Ah no, forse ti sei avvicinato magari un po' al microfono, mi hai saturato a me, magari tu eri anche pulito, ti sei detto solo io saturo, capace. Pulitissimo. Bene, bene, sono contento. Gianni, dici qualcosa di interessante, anche perché tra un po' vi devo salutare io. Cosa ti dico interessante? Mi stanno sempre girando le scatole al telefono, non esco mollato, sto sempre girando quella di Messini. Maledetti, guarda, il mio è difettoso, era bellissimo quando l'ho comprato, poi l'ho caricato, gli ho messo la scheda, e da lì ha iniziato a suonare, guarda veramente, questi telefoni sono proprio un attillo. Io non ho capito bene, sta andando, è una bomba, mi hai detto, se ho capito bene, col National. Sì, va benissimo, capita, vabbè, dice Vittore. Adesso, perché con l'alimentatore comunque siamo nascosti alcune frequenze, è inutile, su questi portatili non riesce ad avere pulizia, perché l'alimentatore interno agli utenti non è molto curato, nel senso che non è perfettamente identificata la corrente, capito? Non è livellata. Dunque il massimo lo si ha con le batterie, solo che non ho avuto tempo di andare a comprare le batterie, in verità. Sì, ho capito. Mica, cioè, se vedi, stavo provando il radio dentro casa, babbo lo stava provando. Se vedi, ti ho scritto il messaggio quanti watt sto uscendo, se vedi stavo splatterando là e si sentiva benissimo come se ero sullo stesso canale. Cioè, sta rientrando la radio Marelli. Sì, mentre si stava ascoltando la musica, visto che avevo una potenza notevole, stavo andando bene, si sentiva bene. C'è una radio accesa a fianco? Una radio accesa? No, un alimentatore acceso, forse quello? No, adesso questo mi innesco, ma forse oggi sento le voci. Tanto. E perciò tu praticamente stai entrando nello stereo. capita dai, anche perché quegli apparecchi non erano schermatissimi, capito, al tempo, perciò capace che tu non abbia neanche furia, o forse non lo sappiamo, perché l'apparecchio che stai usando non è il tuo, ricordiamocelo. Puntualizziamo, non è il mio, infatti lo sto tenendo bene, mi devono restituire il mio e io sto usando il suo. Esatto, poi vediamo il tuo, le variazioni si fanno col tuo. Ma a che punto è? Non ti ha detto niente? È incasinato, l'unica cosa...